Io ed i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme. Con l'anima smaniosa a chiedere di un posto che non c'è. Tra mille mattini freschi di biciclette, mille più tramonti dietro i fili del tram, ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me. Io e i miei cassetti di ricordi e di indirizzi che ho perduto. Ho visto visi e voci di chi ho amato prima o poi andar via. E ho respirato un mare sconosciuto nelle ore larghe e vuote di un'estate di città. Accanto alla mia ombra lunga di malinconia. Io le mie tante sere chiuse come chiudere un ombrello. Col viso sopra il petto a leggere i miei dolori e i miei guai. Ho camminato quelle vie che fragile e violento, mi son detto tu vedrai, vedrai, vedrai. Strada facendo vedrai che non sei più da solo. Strada facendo troverai un gancio. Questa gente che c'è al mondo, io che ho sognato sopra un treno che non è partito mai, e ho corso in mezzo a prati bianchi di luna per strappare ancora un giorno alla mia ingenuità, e giovane e invecchiato mi son detto tu vedrai. Questa potrà mai cambiare la vita. Ma che cos'è che mi fa andare avanti e dire che non è finita?